Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Si apre il mese di giugno anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Torniamo con te su alcuni dati che l'Istat ha pubblicato nei giorni scorsi per alcuni ragionamenti e approfondimenti. Le nascite sono al minimo storico, 6 milioni e mezzo di persone senza lavoro, giovani in fuga. Sono tre notizie che in realtà si intersecano nel loro significato. Da cosa partiamo? Partire innanzitutto, Mirko, dal fatto che in queste tre notizie finalmente si è considerati anche i disoccupati che hanno 50 anni over e anche più e sono in cerca di lavoro, che troppo spesso e troppo comunemente vengono sottovalutati in quanto ci si concentra giustamente sui giovani di età compresa dai 15 fino ai 34 anni. Però partendo da questa fotografia che l'Istat ha fatto, partirei proprio dalle nascite, perché nel 2013 praticamente le nascite sono state poco meno di 515.000 bambini, addirittura 12.000 in meno rispetto al minimo storico che era del 1995, quindi sostanzialmente capiamo come ci sono state nel 2013 circa 64.000 nascite in meno. E quindi il nostro paese mediamente invecchia, ci diminuisce anche nella sua popolazione, questo nonostante poi gli ingressi anche degli immigrati e le nascite che comunque gli immigrati garantiscono maggiormente rispetto agli italiani di origine. Dietro a questo si dice sempre che ci sono motivi economici, però tanti anni fa, almeno fino a tre generazioni fa, forse la crisi e le difficoltà economiche erano maggiori, ma l'indice demografico era più alto. Sì, certamente se stiamo ragionando sulle nascite, l'unico dato confortante, è vero che l'Italia è un paese che invecchia sempre di più ed è proprio il dato che l'età media degli uomini è di 79,6 anni e delle donne di 84,4. Certamente un dato che si colloca di sopra della media europea. Però è anche vero che questa crisi ha determinato anche una frenata degli immigrati, così dicono, in quanto gli ingressi sono stati di circa meno 27% rispetto al 2007, mentre purtroppo aumentano chi esce dall'Italia per la ricerca di lavoro, e certamente è un dato che va a bilanciare questa cosa, perché purtroppo negli ultimi anni i giovani che cercano fortuna all'estero veramente sono sempre di più e soprattutto sono anche sempre più i giovani dai 15 ai 29 anni che certamente cercano speranza oltre confine, e parliamo di oltre 10.000 persone in più rispetto al 2008 e quasi 100.000 giovani nel 2013. Quindi sommando i bambini che non nascono, i giovani che vanno fuori, il saldo è ancora più negativo per quelli che restano in Italia. Ah certo, un saldo, due dati negativi che certamente vanno sommarsi e che rendono il quadro ancora più desolante rispetto a quello che è già una situazione di per sé drammatica, anche perché poi a questo abbiamo detto, come nel titolo ha ricordato bene, che parallelamente aumentano i disoccupati e ad oggi sono quasi 6 milioni e mezzo, senza contare poi gli scoraggiati che sono arrivati quasi 1,5 milioni, quindi veramente dati molto molto pesanti che certamente, se continuiamo di questo passo, non potranno che continuare a peggiorare. Quindi 6 milioni e mezzo più un altro 1,5 milioni fa 8 milioni, quindi è circa il 15% della popolazione italiana, insomma è un po' troppo. Ah certo, questo sicuramente è un dato, ma noi siamo convinti che il dato reale poi è ancora peggio, perché poi vediamo che tra il 2008 e il 2013 addirittura in cui l'unico occupato è la donna sono aumentate di 590.000 unità, quindi cosa vuol dire? Che ci sono famiglie che stanno in piedi perché l'uomo ha perso il lavoro, ma fortunatamente c'è la donna che lavora. Addirittura parlare di oggi di nuclei familiari con la donna che lavora solamente è un dato che è più 34% rispetto al 2008, superando addirittura 2,3 milioni, certamente oggi dobbiamo dire che 12,2 delle famiglie è sostanzialmente sorretto grazie alla donna che lavora e non più l'uomo, come per definizione siamo un po' abituati sempre a ragionare. Sì, o almeno secondo i vecchi schemi. Poi a proposito dei figli, delle nascite, può essere un fattore significativo la mancanza di adeguate politiche familiari fiscali, cosa che le associazioni familiari chiedono da tempo, cioè che sia riconosciuto un quorum, un quoziente appunto per i figli, che rischiano di essere più un peso economico più che un valore innanzitutto umano e personale. Ma come in altri paesi d'Europa, e citiamo sempre l'Europa, non ci sono adeguati incentivi proprio per la crescita e l'educazione dei figli, chiaramente poi una delle conseguenze è anche questa. La conseguenza poi posso darla anche da un altro dato sempre diffuso dall'Istat, dove dicono che nel 2013 poco più della metà dei anticipi, ovvero di chi non ha il cosiddetto posto fisso, va avanti con contratti che durano meno di un anno, quindi bisogna dircelo chiaro, oggi pensare di far famiglia e far figli è veramente una grande scelta di responsabilità, perché il futuro veramente ci riserva un punto interrogativo enorme come una montagna. Un quadro dunque piuttosto desolante questo che esce dall'Istat, è il nostro Istituto Nazionale di Statistica che però ci fotografa numeri piuttosto freddi se volete, ma anche con dietro tantissime storie di milioni e milioni di persone e di famiglie. Noi con l'Adico ci ritroviamo tra un paio di giorni per un altro argomento, grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.